Rémy, il a donné champignon et cidre de Breton. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, pourquoi, et demain je n'irai pas souffrir. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi pas, hey! Scende la marea a Mont Saint-Michel, io mi perdo nei tuoi occhi, chi son tre belle. E per qua, e per qua, per qua, per qua, e per qua, e per qua, e per qua, per qua, illusa per coprire, sei gentil pure. E per qua, e per qua, per qua, per qua, va, hey! Ma uscire anche con lei, 7, 8, 9, 10 ragazze per me. Ma ti giuro, sono sicuro che io amo solo te. E per qua, e per qua, e per qua, per qua. E per qua, e per qua, e per qua, per qua. E lo vengo free, sei gentil pipì. E per qua, e per qua, viva la libertà.